scedo sullo specchio, lo specchio dei pensieri miei. Mille voci e mille scrupoli nel letto senza te, nel lenzuolo la mia anima e cerco perché. Fantasie, quelle che ogni notte giocano con me, sono sogni e bugie che la mattina porta dietro di sé. Sono solo fantasie, quelle che ogni notte giocano con me, sono sogni e bugie che la mattina porta dietro di sé. Quante esperienze devo fare prima di incontrare l'uomo che è in me? Mille voci e mille scrupoli nel letto senza te, nel lenzuolo la mia anima e cerco perché. Sulla mia strada, senza confini questa vita.